si fa più nascosta, svanisce la lontana. Nell'ora felice che a tutti li astonde, e i dono la dice, lui trova risponde. La notte è rivolta fra i nuvoli.